Video game. Un nuovo appuntamento inizia, un appuntamento dedicato al mondo dei videogiochi, ma iniziamo come al solito con la soluzione del gioco che li vede protagonisti, la soluzione del gioco della settimana scorsa. Ecco le risposte. Livello 1. Non è mia, ma non è tua. La risposta era sua. Livello 2. Quando si perde il primo, spesso c'è un soldino. La risposta era dente. E mettendo insieme le due parole si ottiene sua dente. E il mostro di fine livello chiedeva: mostro di fine livello. Era così quella di alcune donne dell'Odissea. La risposta era voce, sua dente, proprio come quella delle sirene. Complimenti a Francesco che si porta a casa un buono da 300 euro. E veniamo adesso al gioco di questa settimana. Come al solito, dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per la prima persona che indovina, mandando appunto la mail, quindi la prima mail che arriva, c'è un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Unieuro. Livello 1. La piccola paura degli elefanti. Oltre all'Odissea nello spazio, nel 1999 accadde un'altra cosa singolare. La giapponese Sega pubblicava per le sale giochi un titolo dedicato al tennis e da allora questo sport cominciò a essere ancora più seguito. Sega Virtua Tennis 4. Virtua Tennis 4 è ovviamente la quarta edizione di questo gioco, che non ha mai preteso di essere un simulatore vero e proprio di questo sport, come invece è il titolo Top Spin, ma piuttosto un'evoluzione di quello che fu il primissimo Pong. E ovviamente in questa nuova edizione, disponibile per Xbox 360, PlayStation 3 e Wii, una delle novità più interessanti è la possibilità di giocare con i vari controller disponibili per le tre console. E si potrà quindi utilizzare il Wiimote per chi possiede una Nintendo Wii, un controller Move per chi ha una Sony PlayStation 3 o il proprio corpo per chi ha una Microsoft Xbox 360 con sensore Kinect. Servizio SP. La modalità più innovativa però di Virtua Tennis 4 è data da World Tour, il tour mondiale, che farà del vostro giocatore un vero e proprio fuoriclasse, ammesso che sappiate comportarvi a dovere. Ma prima di spiegarvi come funziona, ecco la seconda parte del gioco che vi coinvolge e che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono da 300 euro. Livello 2. La fibra di molte camicie estive. Virtua Tennis 4. Torniamo a parlare di Virtua Tennis 4. La modalità World Tour vi serve per far crescere il vostro o la vostra tennista portandovi in vetta a tutte le classifiche. Per farlo però non dovrete solo girare il mondo per affrontare partite sempre più impegnative, ma dovrete anche sapervi muovere in quello che è lo showbiz sportivo. Benvenuti al Tour Mondiale SPT. Come in un gioco dell'oca, il vostro personaggio è rappresentato da una pedina che dovrà essere mossa di casella in casella fino ad arrivare a quella finale. E ogni casella ovviamente corrisponde a un'azione da intraprendere. Queste, come nella vita di un tennista reale, comprendono riposo, tornei minori, campagne promozionali retribuite o di beneficenza che servono a migliorare la vostra immagine pubblica, aumentando così fama e visibilità verso gli sponsor, veri e propri tornei oppure allenamento. Passa sugli interruttori. Ovviamente, oltre alla modalità World Tour, potrete anche giocare la versione arcade del titolo, tanto per divertirvi subito, oppure allenarvi con i comandi di gioco, o ancora sfidare gli amici collegati in rete grazie al network delle rispettive console. 040. Nel gioco sono presenti i tennisti più famosi del mondo, come la Sharapova, la Williams con i suoi vestitini, Nadal, Federer e fra gli italiani Andrea Seppi. Un'ultima nota la voglio fare: chi ha la PlayStation 3 può godere anche della profondità del 3D. Affrettati! E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Unieuro. La risposta a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Così si chiama il suo fedelissimo cane. E adesso la classifica. Torna al quinto posto l'idraulico Mario e il suo mix di sport, solo per Nintendo Wii, Mario Sport Mix. Sarà la voglia di rimettersi in forma, ma risale al quarto posto Wii Fit con la Balance Board. Al terzo posto sale la simulazione calcistica più giocata di sempre, FIFA 11, forse dovuto anche al prezzo particolarmente basso. Resistono incessantemente in classifica ancora i Pokémon White e Pokémon Black, solo per Nintendo DS, rispettivamente al secondo e al primo posto. È tutto anche per questa settimana, un saluto da Stefano Gallarini. Game over.